Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi sarete con me, domani torna come sempre Sebastiano Barisoni. 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri messaggi su WhatsApp, i temi di cui tratteremo oggi. In apertura ci occuperemo di pensioni. Avete sentito pochi istanti fa in GR24 le voci del ministro del lavoro Giuliano Poletti e della segretaria della CGIL Susanna Camusso. Si sono incontrati il governo e i sindacati per discutere soprattutto del tema di come far sì che le persone che lo desiderano possano andare in pensione prima, magari con una piccola riduzione dell'assegno, e per rendere questa riduzione il più piccola possibile si stanno studiando una serie di meccanismi e cercheremo di capire su quali punti sta cercando di lavorare l'esecutivo. Ci occuperemo di mercati e questo lo facciamo come sempre. Oggi è un'ottima giornata, veramente un'ottima giornata. Si sta addirittura rafforzando in questi ultimi minuti l'andamento del FTSE MIB, un più 3,2%. La giornata già andava bene complessivamente in Europa. Francoforte guadagna il 2,25%, Parigi il 2,5%, Londra l'1,35% e l'andamento europeo si è rafforzato ulteriormente nel momento nel quale ha aperto e accelerato Wall Street, con lo Standard & Poor's 500 che guadagna l'1,25%, il Dow Jones l'1,18%. Tra le altre cose c'è un ottimo dato sulla vendita delle case esistenti, delle case nuove negli Stati Uniti, un più 16,6%, il dato migliore da 8 anni a questa parte. Per darvi un'idea di quali sono i titoli migliori, così gli diamo già una scorsa, poi andremo come sempre a fare l'approfondimento con i colleghi di Radio Cori il Sole 24 Ore. Monte dei Paschi guadagna il 9,6%, Popolare Emilia Romagna il 7,5%, Mediobanca il 5,9%, Intesa San Paolo il 5,7%, Generali il 5,6%, UbiBanca il 5,3%, Unicredit il 5,08%, è iniziato da poco il consiglio d'amministrazione che deve decidere sulla sorte dell'amministratore delegato Ghizzoni. Se avremo notizie in corso d'opera ovviamente ve le daremo e ci collegheremo con Marco Ferrando del Sole 24 Ore per fare un punto e per capire che cosa succede. Questo il quadro generale di mercati. In fondo all'isino c'è solamente Telecom Italia che cede il 3,25%, più avanti appunto andremo a parlarne, e al momento è l'unico titolo negativo. Fuori dall'isino principale c'è tra i titoli peggiori Salini Impregilo, che cede in questo momento il 13,4%. Ieri ha presentato il piano industriale, un piano industriale che non è piaciuto al mercato. È un importante gruppo di costruzioni italiano, il più importante gruppo di costruzioni italiano. Avremo il direttore generale più avanti per farci spiegare come mai i mercati hanno apprezzato così poco, almeno a loro giudizio, il piano industriale che hanno presentato ieri, e gli sottoporremo anche qualche dubbio che arriva in queste ore dai trader. Poi c'è la Grecia. Oggi si riunisce l'Eurogruppo, deve decidere appunto per quanto riguarda la Grecia, e pesa su tutto questo evidentemente le affermazioni del Fondo Monetario Internazionale, che dice serve una ristrutturazione del debito incondizionata. Come sempre i tedeschi da questo lato non ci vogliono vedere, e ne parleremo di questo nella seconda parte della trasmissione a partire dalle 18. Queste le notizie, i nostri temi principali. In realtà il numero è sempre lo stesso, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Le notizie in breve di oggi. Già vedo che arriva qualche messaggio sulle pensioni, ci arriveremo tra un attimo. Iniziamo come sempre dalle materie prime, a partire dall'oro, in calo dello 0,9% a $1,240 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, il WTI è in rialzo, consegna a luglio più 1,5% a $48,7 al barile, il Brent più 1,14% a $48,9. Il dato sul prodotto interno lordo tedesco, il PIL della Germania è cresciuto dello 0,7% nel primo trimestre, è un dato destagionalizzato rispetto al trimestre precedente. È una conferma della stima preliminare, i consumi privati sono cresciuti dello 0,4%, meno rispetto al rialzo dello 0,6% atteso dagli analisti. In Francia intanto prosegue la protesta contro la riforma del mercato del lavoro. Stamattina la polizia ha sgomberato gli accessi alla raffineria Esso e al deposito carburante vicino a Marsiglia, bloccati ieri da militanti del sindacato CGT che si oppongono alla riforma. Un intervento che era stato annunciato dal premier Valls, che aveva accusato di ricatto i sindacati che provocano penuria di carburante cercando di bloccare il paese. Nel frattempo si registrano disagi su tutti i territori. Alcune pompe di benzina si trovano costrette a chiudere nell'impossibilità di nuovi approvvigionamenti, mentre il segretario generale del sindacato, Philippe Martinez, dice: siamo determinati ad andare fino in fondo. Il fronte greco: non è un'opzione andare avanti nel programma senza il Fondo Monetario Internazionale, dice il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, entrando alla riunione e spiegando che l'obiettivo è raggiungere appunto un accordo col Fondo Monetario Internazionale, però come abbiamo sentito le posizioni al momento sono piuttosto distanti. Una partecipazione che anche secondo il ministro Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, è fondamentale la partecipazione del Fondo Monetario. E però Schäuble non ha escluso l'ipotesi di un eventuale alleggerimento del debito. Non sarà presa prima del 2018, dice. Non a caso a settembre 2017 in Germania si vota. Intanto arriva una lettera dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nella quale si dice che si sostiene il piano Renzi per l'immigrazione, sosteniamo pienamente l'iniziativa del Migration Compact, è un primo passo nella giusta direzione, non l'unico ma è un buon inizio. Abbiamo mandato una lettera a tutti i 28 paesi dell'UE per sostenere l'appello di Renzi. Intanto Renzi parla di economia italiana o di politica economica o di politica. Lo fa Repubblica TV, dice: siamo al lavoro per un ceto medio che ancora soffre. Sul tavolo ci sono le necessità di intervenire per le pensioni, per gli autonomi, per il ceto medio e le famiglie, perché oggettivamente noi siamo molto contenti delle riforme fatte, gli 80 euro, l'IMU, la TASI, l'IRAP agricola, l'IRAP costo del lavoro, però il ceto medio e le famiglie ancora soffrono, quindi su questo c'è un tema di intervento. La riduzione del cuneo contributivo, vale a dire la possibilità di dare un pochino più di soldi ai lavoratori, come abbiamo fatto con gli 80 euro. La rimodulazione degli scaglioni IRPEF, tutto è impossibile da fare. Parla anche del bonus bebè, argomento lanciato dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Credo che il bonus bebè sia una misura importante, ma non credo che sia una misura strutturale o che possa essere risolutiva, dice Renzi. Nessuno fa un figlio perché sa che c'è il bonus bebè, è un'attenzione alle famiglie, non un atto all'incentivo, o un incentivo all'atto, credo in questo caso. Poi parla del Jobs Act. Il merito degli incentivi è al 50% del pacchetto, anche perché gli incentivi li avevano fatti anche quelli di prima, ma non avevano funzionato. Questo per sostenere che il Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro, è stata importante. Non c'è cosa più di sinistra, dice Renzi. Io valuto più o meno il 50% il merito degli incentivi e il 50% il merito delle parte normativa. Il Jobs Act è composto da un pacchetto degli stimoli, che sono gli incentivi, e delle norme, che sono le nuove regole. Dovessi dirle la mia opinione, naturalmente è un'opinione personale, valgono il 50 e 50, vedendo i primi risultati. Poi ci saranno quelli più bravi di me che guarderanno, discuteranno, ma non c'è dubbio che gli incentivi abbiano funzionato. Io credo che siamo l'unico paese al mondo in cui, se gli incentivi funzionano, dico: ah beh, però è merito degli incentivi. Vi ricordo che gli incentivi li avevano fatti anche quelli prima, e però non aveva funzionato. Allora, se gli incentivi finalmente funzionano, evviva! Il Jobs Act da solo non basta, non ho mai detto il contrario. Grazie al Jobs Act ci sono migliaia di persone che hanno dei diritti che prima non avevano. Il Jobs Act ha portato più persone ad avere un contratto a tempo indeterminato, che vuol dire, anche senza l'articolo 18, la possibilità di fare un mutuo. Questa è la più grande operazione di lotta contro il precariato mai fatta da un governo. È la cosa più di sinistra in assoluto. Secondo me è la cosa più giusta. Non c'è stata nessuna operazione così di sinistra fatta in Italia negli ultimi 30 anni come il Jobs Act. E su questo capisco che il sindacato non tutto sia in disaccordo, almeno parzialmente, ma è una verità dei fatti. E già qualcuno ci scrive sul bonus bebè via WhatsApp, qualcuno dice: figli, senza incentivi come si fa? Guarda, io sinceramente è un po' ampio il discorso. Chi vi parla ne ha tre. Il tema è questo: bisogna avere un lavoro, e il bonus, col bonus bebè ci fai poco. Devi avere un lavoro e poi anche un po' di sana incoscienza, perché anche questo ci sta, Ma capisco che questo non sia un discorso prettamente economico, forse di economia comportamentale, se vogliamo. Ancora Renzi, sull'operazione Fiat Chrysler la FIOM ha sbagliato. Se c'è la concertazione siamo più contenti. Se possiamo coinvolgere e dialogare con i sindacati, con le associazioni di categoria, se si può fare gli accordi, noi siamo qui. Cioè, non è che noi siamo ideologici per cui non voglio fare l'accordo, punto e basta. No, noi siamo pronti a fare gli accordi, li abbiamo fatti quando si è trattato di ragionare di Electrolux. Abbiamo lavorato a partire dalla FIOM, quando si è trattato di intervenire sulla Lamborghini o di intervenire, parlo nel settore degli acciaierie a Terni, quando si è trattato di discutere in tanti ambiti di intervento, noi abbiamo lavorato insieme ai sindacati, a tutti i sindacati insieme. Poi ce ne sono alcuni che invece hanno scelto di non lavorare con noi. Fiat Chrysler è un'operazione su cui più che CGL, direi la FIOM, si è schierata contro. Secondo me ha sbagliato Landini, la mia opinione personale. Vedendo i numeri di quello che è successo a Melfi, di quello che accadrà a Cassino, di quello che accadrà dopo a Pomigliano d'Arco, di quello che sta riaccadendo di nuovo in Piemonte, il mantenimento del sito produttivo a Modena. Se devo guardare i numeri che Marchionne aveva proposto e che la stragrande maggioranza del sindacato ha approvato, dico che aveva ragione Marchionne. Intanto l'accordo tra Federmeccanica e i sindacati del metalmeccanici sul rinnovo del contratto è lontano. Dopo un incontro a Confindustria giudicato deludente dalle parti sindacali, FIOM, FIM e Wilma hanno dichiarato 12 ore di sciopero e il blocco degli straordinari per 2 giorni. Per chiudere il dato del CERVED, sono 3.600 le imprese che hanno aperto una procedura fallimentare nei primi 3 mesi del 2016, la riduzione del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2015. I fallimenti però restano, e lo ricordiamo, a livelli storicamente elevati. Tornano però vicini ai dati del 2013, confermando una tendenza alla discesa. Primo tema di giornata, le pensioni. A ma certo, certo. Qualcuno ci scrive da Stoccolma a proposito del bonus bebè delle politiche per i figli, e questo è un classico. Qualcuno che arriva dal nord Europa, e ci fa piacere che ci ascolti da là, che ci scrive e a noi genitori ci fa imbestialire proprio. Un anno di stipendio in maternità più un anno di stipendio per la paternità, senza contare asili gratis, mezzi gratis per madri e figli. E che vi devo dire? Perché poi il tema è questo, no? Ti staccano quella metà dello stipendio per o del reddito d'impresa o quello che volete in tasse, e poi il servizio che ti viene dato. Va bene, va bene. Usciamo dal tema dei figli, per carità, che questa questione mi rende un filino nervoso, e passiamo invece alle pensioni. Andiamo dalla parte opposta dello spettro demografico. Davide Colombo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, questa mattina a Roma c'è stato l'incontro tra il governo e i sindacati sul tema delle pensioni. Da segnalare quindi un ritorno al dialogo dell'esecutivo con un pezzo delle parti sociali, con i sindacati, e su questo devo dire i sindacati hanno espresso una certa soddisfazione. Il Presidente del Consiglio ha detto non si toccano le pensioni, abbiamo intenzione di lavorare sulle minime, e soprattutto il grande tema di queste ore, il cosiddetto APE, che per molti milanesi, quelli un po' più fighetti, è l'aperitivo, e però in realtà è l'anticipo pensionistico. Davide, su cosa sta lavorando il governo? Su che schemi stanno ragionando? Perché chiaramente per consentire a una persona che va in pensione anticipata di sopravvivere ci vuole una qualche forma di risorsa finanziaria, non so come reperita. Davide. Ma lo schema resta per ora lo stesso che è stato in qualche modo anticipato nelle scorse settimane, cioè una ipotesi di anticipo della pensione per un triennio per coloro che sono nati dal 1951 in avanti, e quindi negli anni a venire, se la misura sarà strutturale e non sperimentale, con un intervento del settore creditizio e assicurativo che finanzierebbe questo anticipo ponte della pensione con una garanzia pubblica in termini di tasso di interesse riconosciuto, premio sul rischio di premorienza del lavoratore che appunto si ritira con 3 anni di anticipo optando per questo APE. E poi con il meccanismo che una volta la pensione vada a regime, da questa si fa un micro prelievo spalmato in n anni, 15-20 anni, per restituire l'anticipo all'intermediario che è intervenuto. Questo è lo schema di massa. In sostanza, scusami Davide, funzionerebbe come una sorta di prestito? Più o meno. Ma diciamo che la cosa più simile che una specie di mutuo sulla propria pensione, per così dire, se ho capito bene. Oppure, se vuoi, una specie di schema molto vicino al quinto dello stipendio, il meccanismo che attualmente consente appunto di fare un prestito bancario con la cessione del quinto dello stipendio, no? Un meccanismo di questo tipo finalizzato all'anticipo della pensione. Questo sarebbe lo schema. Il cuore, diciamo, dell'intervento che stanno mettendo a punto. Oggi nell'incontro sindacale non sono stati dati naturalmente dettagli, anche perché pensare che ci siano dei dettagli fermi in questa parte dell'anno è francamente ingenuo, nel senso che il bilancio si sta formando, i vincoli di finanza pubblica li conosceremo solamente dopo la seconda metà del mese di settembre. E quindi, siccome appunto un impegno di finanza pubblica è comunque previsto, il governo ha fatto trapelare l'ipotesi di non meno di 1 miliardo di maggiore spesa che viene fiscalizzata, finanziata, quindi questo, anche se è un solo miliardo, è moltissimo dentro una legge di bilancio per il 2017 che avrà un margine di manovra molto ristretto. Ricordiamoci sempre il quadro di finanza pubblica, perché quello non cambia da oggi a domani. Oggi per esempio è stata rievocata l'ipotesi degli 80 euro per i pensionati con le pensioni più basse oppure di un intervento per le pensioni più basse. Sì. Ecco, questi tipi di annunci, al di là evidentemente dei calendari elettorali, vanno sempre letti tenendo conto che il quadro di finanza pubblica che abbiamo raccontato la settimana scorsa con le raccomandazioni europee non è cambiato, certo, è uguale. Certo, quindi tu, come dire, carichi di continui annunci tutto quanto e poi bisogna vedere se hai margini di spesa per poter mantenere tutto questo, no? Precisamente, oggi il Premier ha ribadito un intervento sul cuneo fiscale. Allora, il cuneo fiscale significa, se riduci il cuneo fiscale, hai minori entrate o finanziarie o fiscali o contributive. Se aumenti la spesa previdenziale, aumenti sì, la spesa anche se corrente, forse Davide, quindi... anche se forse Davide, in teoria, nell'ipotesi governativa, poi per carità, bisogna vedere nella pratica, forse come dire, la minore entrata contributiva si potrebbe riequilibrare col fatto che riducendo il cuneo fiscale forse viene assunta più gente, c'è più gente che lavora, però forse un po' più sul medio termine, no? Quello dal punto di vista delle dinamiche del mercato del lavoro, però se tu tagli... mettiamo di qualche punto percentuale l'attuale cuneo al 33%, e se vuoi assicurare una pensione invariata per il lavoratore, per esempio, devi fiscalizzare questo taglio. Viceversa, metti in conto una riduzione delle pensioni future. Cioè, il trade-off è sempre quello, quello che dicevamo prima, cioè c'è una dimensione di finanza pubblica che intermedia le pensioni future pagate dai lavoratori attualmente attivi che pagano con il sistema a ripartizione le pensioni vigenti. Una tua valutazione, Davide, secondo te, stante il quadro e posto che la situazione è estremamente fluida, estremamente in movimento da questo punto di vista, anche sul fronte dell'andamento dell'economia italiana, che non è una variabile indipendente da tutto questo, perché bisogna vedere come vanno i prossimi trimestri, insomma, è possibile che questo intervento ci sia davvero oppure secondo te si finirà per rimandare alla stabilità dell'anno successivo? Siamo proprio nell'ambito del secondo me, quindi non delle notizie che filtrano da Palazzo Chigi in questa fase. Allora, secondo me l'unico margine per intervenire sia sul cuneo sia sull'APE con la legge di bilancio per il 2017, cioè quella che si farà ad ottobre, per fare queste cose bisogna fare una riflessione sul disinnesco della clausola IVA nella direzione di magari un disinnesco parziale e non totale. La clausola di salvaguardia, lo ricordiamo, è la clausola di salvaguardia che appunto dovrebbe far scattare l'aumento dell'IVA a partire dall'anno prossimo, no? E quindi tu dici magari con un disinnesco parziale di questa clausola, ossia che magari non riguardi per esempio solo alcune categorie di beni, ipoteticamente, no? Oppure solo un taglio parziale in termini percentuali, un aumento parziale in termini percentuali, si potrebbe arrivare come dire, a fare questo tipo di intervento, no? Sì, precisamente. Stiamo parlando di 15,6 miliardi, se tu disinneschi la metà vuol dire che ti si liberano tra i 7 e gli 8 miliardi per fare le altre due cose, per esempio. Ma è un ragionamento di puro buon senso che io propongo. grazie a Davide Colombo del Sole 24 Ore. Noi adesso facciamo così, ci fermiamo un attimo perché è giusto andare puntuali con la pausa per il meteo e poi ci ritroviamo tra pochissimo. Magari sentiremo anche qualche voce dei sindacalisti che hanno partecipato all'incontro e poi ci sarà la borsa. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Focus Economia. Vedo che il tema bonus bebè vi coinvolge particolarmente. 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp. Qualcuno ci scrive, dato che abbiamo citato l'esempio della Svezia, perché ce lo faceva un ascoltatore, un'ascoltatrice, perché non ricordi che la Svezia, siete smemorati, perché non ricordate che la Svezia non ha il 132, il debito al 132% del PIL, ma figuriamoci, smemorati noi che non facciamo altro che ricordarlo praticamente tutti i giorni. La Svezia ce l'ha il 40%, giusto per chiarire, sì, anche questo è un elemento. la borsa e poi magari nella seconda parte della trasmissione riusciremo a sentire qualche voce da questo incontro di oggi sulle pensioni che vi ho annunciato, ma dipende anche da quello che succede in cronaca. Borsa si chiude sui massimi, FTSE MIB più 3,3%, FTSE O'Share più 3%, Ceo Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Cosa dobbiamo questi rialzi? Ma diciamo che oggi non ci sono dei motivi precisi, forse il realizzo un po' degli ultimi giorni, comunque le incertezze della borsa, in particolare a Milano sui titoli bancari, hanno giocato un ruolo. Oggi diciamo che le borse sono state positive per buona parte, diciamo, per la prima metà della seduta, poi sicuramente con l'ottimo avvio di Wall Street, che ha guadagnato oltre un punto percentuale, sta guadagnando adesso l'1,1%, e i nostri listini hanno messo il turbo, il migliore d'Europa e Milano, più 3,34%, soprattutto grazie al comparto bancario. Comparto bancario che vede in primo piano Monte dei Paschi, più 10,5%. Su Monte dei Paschi abbiamo una notizia, c'è il vice ministro Morando che ha parlato di un possibile incremento della quota del tesoro nel capitale. Attualmente il tesoro italiano detiene il 4%, ci sono però da pagare da parte del Monte dei Paschi gli interessi sui Monti Bond, potrebbero essere pagati in azioni e quindi di conseguenza il tesoro aumenterebbe il proprio peso, salirebbe al 7% del capitale della banca senese. Ricordiamo anche che a maggio, insomma da fine aprile, MPS aveva perso quasi il 30%. Bene anche la Popolare Emilia Romagna, più 7,8%, Mediobanca più 6,08%, Intesa San Paolo più 6,08%, Bene Generali più 5,7%, UBI Banca più 5,6%, Banca Mediolanum più 5,17%, Unicredit più 4,8%. Beh, qua si attende il consiglio d'amministrazione, no? Che è iniziato. Sì, è iniziato alle 16, insomma tutti gli organi di informazione indicano su una possibile, diciamo, disponibilità che verrà fornita dall'amministratore delegato Federico Ghizzoni a consegnare il proprio mandato. Nel frattempo comunque il titolo di Unicredit ha guadagnato, così come le altre banche, si è accodato con un rialzo di quasi il 5%. Allora, sul listino principale tutti i titoli sono positivi, considerate che il peggiore, meglio, il secondo peggiore è Italcementi, che guadagna lo 0,29%, poi Luxottica più 0,81%, Banco Popolare più 1,11%, Tenaris più 1,21%, Ferragamo più 1,2%, Buzzi Unicem più 1,3%, tranne Telecom Italia giù del 2,3%. Su Telecom Italia c'è un report di Exxon, che è la banca d'affari di BNP Paribas. Exxon sottolinea in particolare la grossa minaccia che potrebbe rappresentare Enel sui piani per l'installazione della banda larga in Italia da parte di Telecom. Exxon parla addirittura di una minaccia distruttiva per Telecom da parte di Enel. Ricordiamo che il piano di Enel prevede di posare la fibra nel 30% delle case italiane, evidentemente sarà un concorrente molto importante per Telecom. Quello che sottolineano gli analisti di Exxon è che tutto ciò potrebbe veramente penalizzare quelli che sono poi diciamo i profitti che Telecom intende realizzare proprio sulla banda larga. Per quanto riguarda gli altri titoli, A2A più 1,5%, anche qua bene ma non tra i migliori. No, qui c'è un diciamo il titolo performa sotto l'indice, c'è il problema dell'apertura dell'istruttore antitrust per l'aggregazione con Linea Group. A2A dovrebbe rilevare il 51% della multiutility della Bassa Lombardia. L'apertura dell'istruttoria allunga ulteriormente i termini, il closing era previsto entro il 6 giugno e allunga i termini di una vicenda che è già molto lunga e quindi c'è un po', diciamo, di sfiducia da parte del mercato. E infine Salini in pregilo, ieri ha presentato il piano industriale, è il fuori dal listino principale, è il titolo peggiore in assoluto, no Ceo? Tra l'altro tra poco sentiremo il direttore generale, Ceo. Sì, diciamo che è un piano che non è piaciuto molto al mercato. Cosa non è piaciuto? Difficile dirlo, ci possono fare alcune ipotesi. C'è chi parla di obiettivi per quest'anno che sono inferiori alle stime, che soprattutto la maggior parte della crescita prevista del piano non si concretizzerà prima del 2018. E giù quindi Salini in pregiro del 13,6%. Grazie a Ceo Condina, Radio Corri Il Sole 24 Ore, al quale auguro una buona serata e un buon lavoro. Buona serata Ceo, noi adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi appunto parleremo col direttore generale di Salini in pregiro per parlare un po' di questo piano industriale e anche di questo calo di borsa. Focus Economia. E come si diceva, ci occupiamo adesso di un gruppo industriale italiano, Salini Impregilo, uno dei maggiori gruppi mondiali nella costruzione di grandi infrastrutture complesse, specializzato nel segmento dell'acqua, e che ieri ha presentato il piano industriale. E come vi abbiamo detto poco fa nel nostro aggiornamento di mercati, è un piano industriale che evidentemente agli analisti e ai trader non è piaciuto, tanto che il titolo in borsa ha ceduto il 13,6%. In collegamento con noi Massimo Ferrari, direttore generale di Salini Impregilo, buonasera. Buonasera. Allora, il piano industriale, appunto, si diceva, prevede ricavi a 9 miliardi nel 2019, un 30% di questi ricavi generati negli Stati Uniti. Si prevede tra l'altro nel 2019 il raddoppio dei dipendenti in Italia, una consistente riduzione del debito, eppure, come si diceva Ferrari, mi sembra il mercato non abbia per nulla apprezzato. Sì, intanto c'è da dire che il giudizio su un piano industriale quadriennale di un'azienda che opera in settori con tipicamente cicli molto lunghi non può essere giudicato in poche ore di mercato né in ricerche pubblicate flash dopo una presentazione che abbiamo fatto ieri. Il piano prevede un'importante crescita, ma soprattutto una crescita di grande qualità in termini di paesi, mercati, segmenti e soprattutto di generazione di cassa. Così, la delusione di qualche analista è soprattutto sul 2016, dove noi comunque cresciamo del 3% rispetto ai dati pro forma del 2015, quindi includendo Lane, la società americana che abbiamo acquisito, che in realtà consolidiamo solo dal 2016, cresciamo meno però delle attese, questo perché abbiamo reso noto con grande trasparenza che i ritardi su alcuni lavori, in particolare dell'Italia, genereranno un rinvio del fatturato che proviene da questi lavori al 2017. Questo per quanto riguarda appunto l'aspetto del 2016. Qua parliamo di un paio di analisi, quelli di Kepler Chevreux, che hanno abbassato il target price da 5,2 a 3,9 euro, Banca Akros che ha abbassato da 4,8 a 4,2. E più in generale abbiamo letto, Ferrari, qualche valutazione di trader, come al solito riferiti dalle agenzie di stampa che li sentono, parlano anonimamente, quindi glielo chiediamo anche per capire un attimo come la vedete da questo punto di vista. Voi avete detto che volete arrivare ad avere un 30% del fatturato negli Stati Uniti. Qualcuno dice attenzione, è un mercato maturo, ci sono quindi meno margini per certi aspetti, e quindi anche sulla scorta di questo, e quindi sulla scorta non più solo del breve termine ma anche un po' più del medio termine, come dire, c'è da aspettarsi qualcosa di meno. Gli Stati Uniti crescono, è un mercato maturo, forse in termini appunto di marginalità sicuramente minore di quella globale che abbiamo grazie al backlog precedente di grandi lavori che abbiamo acquisito, ma comunque una marginalità interessante, superiore alla media dei nostri peers. È un mercato dove l'investimento in infrastrutture o il rinnovo delle infrastrutture è in molti stati già finanziato, gli stessi stati devono spendere quella cifra perché sono cifre che rivengono da aumento di tasse nel settore del gas e devono spendere nelle infrastrutture, quindi è una crescita che sostanzialmente, non voglio dire che è garantita, ma è molto sicura, è una crescita che genera cassa. Questa è una cosa importante che credo tutto il mercato, forse un po' meno i trader che guardano a breve termine o quei gestori che operano con modelli quantitativi che seguono il momentum, è importante avere una buona marginalità, ma soprattutto una marginalità che corrisponda della cassa. Questo gli Stati Uniti lo assicurano, infatti danno un ottimo contributo alla generazione di cassa. Adesso abbiamo parlato di quello che è successo oggi sui mercati, però veniamo anche al piano industriale, al piano industriale di un grande gruppo industriale italiano, appunto. Allora, nel giugno 2016 saranno consegnate tre tra le principali opere infrastrutturali costruite nel mondo, a partire, mi sembra, dal nuovo canale di Panama, che se vogliamo forse è quello più suggestivo, Ferrari, no? È corretto. Sì. Il 23 giugno ci sarà l'inaugurazione ufficiale, quindi passeranno le prime navi, sono stati superati tutti i test. Non era una scommessa certa da vincere, perché solamente due anni fa i problemi tecnici, finanziari e di rapporti con il cliente rendevano seriamente a rischio il raggiungimento di questo traguardo. Oggi l'abbiamo raggiunto e dobbiamo dire che grazie ai nostri ingegneri italiani, che rappresentano tutta la prima linea del consorzio che gestisce il canale di Panama, questo lavoro che genererà circa 400 milioni di dollari di entrate per lo Stato di Panama al mese, sarà funzionante, efficiente e invito tutti a vedere anche i filmati che ci saranno per l'inaugurazione e quelli che abbiamo sul sito. È un'opera impressionante, un'opera che rimarrà nella storia delle infrastrutture. E questa è la più importante. Poi consegniamo una diga in Africa, che è una delle diverse dighe che abbiamo fatto, e proprio ieri abbiamo annunciato un nuovo contratto importante per realizzarne un'altra. Sì, a questo tra l'altro volevo tra l'altro arrivare, Ferrari, no? Avete annunciato una commessa a 2 miliardi e mezzo, se non erro. Sì, una commessa importante. Questa è un'altra stelletta al nostro merito, perché sono poche le società che operano in questo settore che possono vantare di realizzare opere di questa dimensione al 100%, quindi senza altri soci, senza partner, quindi con grandissimi vantaggi in termini non solo di visibilità, di aspetti tecnico-operativi, ma anche ovviamente di marginalità e di generazione di cassa. E quindi è questo il fronte del futuro delle commesse. Per tornare all'aspetto finanziario, e che non si esaurisce qua evidentemente, è chiaro, però abbiamo toccato quelli che sono al momento i punti principali. Per tornare alle questioni finanziarie, c'è anche un piano di riduzione del debito, perché quello è un problema, per così dire, al momento, naturalmente, cioè gestibile, mi sembra di capire, però è un problema in termini di dimensione, no? Mi permetto di correggere questo aspetto, perché abbiamo un livello di indebitamento netto che poche altre società di costruzioni hanno. Noi abbiamo chiuso il 2015 sostanzialmente a zero di debito netto, sì, con una società che è cresciuta di più del 12% all'anno. A livello di debito lordo abbiamo un rapporto debito lordo fatturato che, di nuovo rispetto ai peers che operano nel settore costruzioni, è estremamente positivo. Ciò nonostante intendiamo ridurlo grazie alla generazione di cassa. Questo anche perché, riducendo il debito lordo, che oggi sappiamo costa poco, per fortuna, grazie alla politica monetaria espansiva che c'è a livello mondiale, in Europa in particolare, però in una prospettiva di 5-7 anni poter ridurre gli oneri finanziari ovviamente incrementa la disponibilità di cassa dagli azionisti. Quindi tutta la generazione di cassa consente non solo di finanziare la crescita di un gruppo che passerà da 6 miliardi a 9 miliardi, ma anche di ridurre il debito lordo e in questo modo anche di aumentare, attendere la politica dei dividendi e quindi la distribuzione agli azionisti. In termini di payout, appunto, dei dividendi, come intendete comportarvi? Noi abbiamo annunciato ieri che abbiamo un target di posizionarci nell'arco di piano intorno al 40%. Ovviamente tutto questo e tutto quello che ci siamo detti fino adesso si inquadra anche nel obiettivo di rimanere con un alto profilo di standing creditizio, addirittura di migliorarlo. Noi targettiamo anche la possibilità di diventare investment grade, che vorrebbe dire ridurre ulteriormente il costo del denaro per noi, e questo ovviamente non l'abbiamo riflesso nel piano, ma stiamo facendo tutti gli sforzi e li faremo nel piano per migliorare ancora il profilo creditizio. Avremo un rapporto tra debito lordo e debita che si avvicinerà a 2 volte, che vuol dire un livello proprio da investment grade. La ringrazio, grazie a Massimo Ferrari, direttore generale di Salini Impregilo, per essere stato con noi. Qualcuno chiede ancora perché oggi è sceso in borsa Salini Impregilo. In parte ve l'abbiamo raccontato, anche lo abbiamo chiesto anche a Ferrari, in effetti lo avete sentito anche da CEO Condina, e ci sono delle valutazioni di alcuni analisti e di alcuni trader, soprattutto sul 2016. Loro hanno presentato il piano industriale su 4 anni e sostengono, come ha detto Ferrari, appunto, un piano industriale su 4 anni, e in questo momento il mercato sta facendo una valutazione di brevissimo termine. Questo per quanto riguarda Salini Impregilo. In realtà, come si diceva, il titolo peggiore in una giornata di mercati particolarmente positiva, con Milano che ha guadagnato, e lo dico per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, il 3,3%, sul FTSE MIB il 2,99% sul FTSE Share, un'Europa che va molto bene, l'America, vi aggiorno, lo Standard & Poor's 500 guadagna l'1,3%, con il Dow Jones che guadagna l'1,2%, e Milano, appunto, che è stata oggi la migliore in Europa, supportata anche dai bancari. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire come sempre GR24 a quest'ora e poi nella seconda parte della trasmissione entreremo finalmente sul tema della Grecia, il tema sulla Grecia che riguarda questa richiesta del Fondo Monetario Internazionale che chiede appunto una moratoria in sostanza sul debito greco. A Bruxelles c'è un'atmosfera piuttosto tesa complessivamente, non solo dentro l'Eurogruppo ma anche fuori dall'Eurogruppo, perché c'è stata una protesta di piazza, e vedremo di fare un punto su quali sono le trattative, soprattutto a questo punto tra i tedeschi e il Fondo Monetario Internazionale in merito alla situazione del debito greco. Pausa, GR, a tra poco. Inizia la settimana della moda, il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale, nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Personalissima, è amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. State ascoltando un programma offerto da... Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, bentornati a Focus Economia, siamo alla seconda parte, è il 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp. E dunque ricominciamo come avevamo detto dalla Grecia, dalla riunione dell'Eurogruppo di oggi, ma non solo quello, perché sono tante le vicende europee che si incrociano in queste ore. Se vogliamo, per certi aspetti sono sempre le stesse, ma ci raccontano un quadro del vecchio continente, per così dire, che è quello, per usare un'espressione abusata, che è quello che abbiamo presente da mesi. Perché se è vero che l'Austria ha votato respingendo il populismo di destra anti-immigrati, è vero che lo ha fatto con un margine molto stretto, dello 0,3%, anche questa è la democrazia, per carità, è anche giusto che sia così. È vero anche che oggi sono arrivati altri 50 poliziotti austriaci al Brennero, ed è vero anche che abbiamo le notizie della costruzione della barriera che prosegue. È vero che abbiamo ancora una situazione greca che dopo tutto questo tempo e dopo tutte queste discussioni appare parzialmente incancrenita, anche se qualche spiraglio si vede. Spiraglio che però porta la Grecia stessa ad approvare misure piuttosto pesanti di austerità, a fronteggiare ancora una piazza arrabbiata. Un aumento dell'IVA dal 23 al 24% su diversi prodotti, fra cui benzina, sigarette, caffè, utilizzo di internet, pay TV e beni di lusso, un'ulteriore tassa di soggiorno, un incremento di imposte patrimoniali, ammesso che la Grecia sia in grado e abbia la capacità di riscuoterle, perché poi questo è un altro grande tema. Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera e benvenuta. Buonasera. Allora, io partirei proprio dalla Grecia. Qua è in corso proprio in queste ore una trattativa a quanto pare piuttosto intensa, soprattutto mi sembra di capire tra il Fondo Monetario e i restanti paesi europei, Germania in testa, no? Sì, dunque ci sono due cose in discussione. Una è lo sblocco degli aiuti del terzo pacchetto di salvataggio della Grecia, si parla di 9-11 milioni che dovrebbero essere appunto sbloccati perché il governo greco ha approvato le misure e le riforme necessarie per ottenerlo, sia le misure e le riforme da fare oggi, sia quelle che scatterebbero nel caso in cui non mantenesse i propri impegni. Il secondo problema invece è quello a cui accennavi tu, che è quello del contrasto tra Fondo Monetario e Germania sulla sostenibilità del debito greco, quindi sulla sua ristrutturazione in tempi, diciamo, allungatissimi, proprio perché il paese non è in grado di rispettare appunto le scadenze che si trova davanti. E su questo non sembra che servirà un accordo, al massimo si potrebbe arrivare a una divisione in tranche del programma di ristrutturazione, perché la Germania si oppone a raggiungere un accordo prima del 2018. L'accusa ufficiale è che questo salvataggio finisce nel 2018. Nella realtà ci sono le elezioni in Germania. Appunto, ci sono a settembre 2017 le elezioni in Germania, esatto. E dato che per i tedeschi è una cosa che abbiamo raccontato spesso e che a noi sembra quasi paradossale, però i temi del debito pubblico, delle banche centrali, temi economici di questo tipo in realtà sono molto popolari e sono pezzi di campagna elettorale piuttosto importanti, per quanto a volte cavalcati in maniera populistica e tutto quello che vogliamo, però ci sono e sono forti in campagna elettorale, no? In Germania di sicuro si vincono e si perdono le elezioni su questo, come sui migranti, quindi è ovvio che ci sia una certa qual prudenza nel fare delle concessioni, ma il paradosso è ancora più paradossale, nel senso che in realtà si negozierà per la cancellazione di fatto di parte del debito, perché le scadenze, si parla addirittura ormai di allungarle al 2080, quindi vuol dire fare svanire in definitiva le cose, però non si possono chiamare le cose col proprio nome per ragioni elettorali. Ora, va benissimo naturalmente, ognuno tira l'acqua al proprio mulino, è legittimo, è normale, però chissà come mai la Grecia deve assolutamente rispettare alla lettera tutti gli impegni, le cose più spietate dal punto di vista della richiesta appunto di tagli eccetera eccetera, gli altri possono permettersi di giocare sulla sua pelle con la scusa che la Grecia ha la colpa del debito. Giocare sulla pelle della Grecia, poi io non è che sia particolarmente antitedesco, però là c'è per esempio il tema, il famoso tema del surplus di bilancio dei tedeschi, loro stanno là molto occhiuti sui problemi di bilancio dei vari degli altri paesi europei, in particolare dei paesi del sud Europa, poi però quando c'è un grande tema che riguarda il rilancio di tutta l'economia europea, si chiude un occhio, no? Perché surplus a livello elettorale è bello, no? Sì, no, ma non solo, loro hanno l'alibi quasi perfetto, dice ma come? Perseguite le nostre virtù, ma in realtà sono virtù solo tedesche e solo in parte, perché in definitiva anche loro soffrono di mancanza di investimenti, la loro economia non cresce in modo così brillante. Ma è certamente un modo di sottrarre crescita agli altri, di accumulare risparmi e di comprimere la domanda, quindi i consumi. Quindi naturalmente questo non fa bene in parte alla Germania, ma soprattutto non fa bene all'Europa, perché tutto quello che risparmia la Germania non viene rimesso in circolo e quindi non fa crescita. Allora, noi adesso andiamo a sentire un attimo che cosa succede sulle strade e poi con Adriana Ceretelli vorrei rimanere su questi temi e allargare un po' lo sguardo a quello che succede in Europa, in particolare, come si diceva, alle elezioni austriache, senza considerare che sono ore nelle quali un grande paese come la Francia, un grande paese europeo come la Francia vive appunto momenti di forte difficoltà per le proteste di piazza che stanno caratterizzando questa riforma del mercato del lavoro che vuole mettere in atto il presidente francese François Hollande, il governo francese in genere, e insomma, quindi è un momento, per così dire, complessivamente delicato per vari elementi e su vari fronti. Il traffico a tra un attimo. Focus Economia. Eh sì, poi ci sono anche tutte le dichiarazioni quasi di rito dall'Eurogruppo. Moscovici dice lo sforzo riformista apre all'esborso sugli aiuti, lo sforzo riformista di Atene. Uno sforzo che merita di essere segnalato, che apre appunto la possibilità dell'esborso di aiuti che la Commissione spera essere sufficiente per dare qualche mese di tranquillità al paese. Ci sono le dichiarazioni che riguardano il coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale. Schäuble dice non c'è programma senza il Fondo Monetario Internazionale, deve rimanere coinvolto, è alla base del piano. Il presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, non è un'opzione andare avanti nel programma greco senza appunto l'FMI. E poi il ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan. Sono stati fatti passi avanti da parte delle autorità greche, hanno preso misure importanti, quindi guardiamo con sereno ottimismo a questa discussione. L'accordo riguarda molte variabili, riguarda il profilo di aggiustamento, le misure specifiche, il profilo del debito, deve essere un pacchetto complessivo. L'Italia si schiera come si è sempre schierata, cioè nel fatto che vanno riconosciuti gli sforzi di riforma da parte dei paesi e va fatto di tutto affinché un'economia come quella greca possa il più presto possibile tornare sui mercati e quindi finanziarsi da sola e non soltanto in base ai sostegni pubblici. E in tutto il discorso che abbiamo fatto prima, appunto l'Austria, la Grecia, la Francia con le proteste di piazza, qualche ascoltatore ci fa giustamente notare che abbiamo colpevolmente omesso il referendum britannico al quale manca un mese. Iniziamo dall'Austria però. Allora Adriana, è vero che alla fine democrazia vuol dire anche quei 30.000 voti in più che hanno consentito al candidato verde di diventare presidente della Repubblica, è vero anche che il segnale è stato da parte della destra anti-europeista, a favore dei confini eccetera eccetera, è stato fortissimo dall'Austria. Assolutamente sì, nel senso che per un'incollatura naturalmente Hofer ha perso, ma ha vinto se si tiene conto della proporzione del consenso che ha raccolto, cioè metà dell'Austria è dalla sua parte. E non dimentichiamoci che la coalizione invece del nuovo presidente Van Bellen è una coalizione, diciamo, difensiva, messa insieme in extremis per fermare l'estrema destra. E va benissimo che sia stata fermata, ma non dimentichiamoci che non è una coalizione solida come quella dell'estrema destra, che non è una coalizione ma un partito che ha ottenuto consensi. Quindi è abbastanza, anzi direi che è preoccupante questo fatto. Per esempio, sempre nella domenica che ha eletto il Verde a Cipro, per la prima volta nella storia sono entrati due parlamentari di estrema destra, voglio dire Cipro alla periferia dell'Europa. Proprio perché purtroppo questi movimenti estremisti, populisti, anti-immigrati, anti-europei stanno crescendo in Europa, perché l'Europa non riesce a dare delle risposte soddisfacenti alla gente comune, alla gente che vive i suoi problemi quotidiani di insicurezze di tutti i tipi. Ecco, c'è il fronte alle insicurezze sicuramente, c'è la questione dei migranti che è stata cavalcata, no, da questi movimenti, però probabilmente, Adriana, c'è anche il fatto che, insomma, a non so ormai più quanti anni dall'inizio della crisi greca, ci ritroviamo qua a fine maggio, quasi giugno, come praticamente ogni estate da 4-5 anni a questa parte, a continuare a parlare della stessa cosa. Quindi, come dire, c'è anche un tema di incapacità decisionale complessiva che incide su tutto questo, no? Ma sì e no, secondo me il problema greco è un problema, diciamo, di policy mix e di policy e di mix di rigore, nel senso che la crisi ha portato, secondo me, a un eccesso di supremazia tedesca che ha portato a un culturale tedesca che ha portato a un eccesso di ricette, diciamo, cure da cavallo. Questi eccessi non hanno fatto bene alla Grecia, perché il suo debito, in sostanza, che all'origine della crisi era al 123%, è arrivato sopra il 200%, semplicemente perché la recessione è stata tale, per cui, siccome il debito è un rapporto rispetto alla crescita, ovviamente è schizzato alle stelle. Ma poi ha fatto male a tutti, perché ha creato diciamo recessione in Europa e ha creato sfiducia nella gente, per cui non c'è, una volta l'Europa era un'entità benevola che distribuiva pace e benessere nell'immaginario, nell'inconscio collettivo. Questa crisi l'ha trasformata in una realtà malevola che distribuisce sacrifici, tagli, pensioni, salari, qualsiasi beneficio, welfare naturalmente, e quindi a poco l'ostilità verso questa realtà europea non ha fatto che aumentare. Poi ci si è messa la crisi dei migranti, che naturalmente ha toccato altri tasti delle insicurezze delle persone, e quindi siamo arrivati in questa situazione in cui l'Europa è in balia dei nazionalismi, della xenofobia, dell'annullamento della solidarietà, perché quando si dice no alla mutualizzazione degli aiuti si dice no alla solidarietà, naturalmente questo a qualsiasi livello, che siano le banche, la distribuzione dei rifugiati, e quindi siamo in un momentaccio dal quale si spera prima o poi di poter uscire, ma senza crescita, e qui torniamo a quello che dicevamo prima, cioè senza uno sforzo collettivo che faccia crescita europea e che quindi sollevi da questa gelata che insomma continua a tenere in ostaggio la ripresa, difficilmente si ritornerà al consenso al progetto europeo, secondo me, perché l'Europa è sempre andata avanti in periodi di congiuntura economica favorevole ed è sempre andata indietro nei momenti di crisi di qualsiasi genere, crisi economiche, crisi finanziarie, crisi in questo caso sociale anche. Non ci dimentichiamo, tu citavi la Francia, ma oggi in Belgio sono scesi in piazza 60.000 persone, sì, per protestare contro l'austerità, contro, sì, l'austerità del governo in carica. Quindi anche il piccolo Belgio, no? Si fa la sua parte di proteste, di scontento, di frustrazioni nei confronti di una politica che poi è quella che detta un po' l'Europa, no? Perché il Belgio è un paese indebitato, è il terzo per indebitamento percentuale dopo appunto la Grecia e l'Italia, e quindi i tagli fanno parte, diciamo, degli impegni presi con il patto di stabilità, ma la gente si ribella perché è troppo a lungo, dura, certo, cioè sono 7 anni, no, che sì, continuiamo, sì, con questi programmi di, sì, di tagli, di sacrifici, insomma dopo un po' la gente è stufa. Ti ringrazio, grazie ad Adriana Cerretelli, editoressa del Sole 24 Ore da Bruxelles. Ti auguro buona serata e buon lavoro, Adriana. A voi anche, arrivederci. Sì, sia chiaro, perché poi già qualcuno scrive: senti a dove viene il pulpito, quelli che dicevano con l'euro avremmo lavorato di meno, avremmo guadagnato di più. Guardate, qua non si sta parlando dell'euro, non si sta parlando di una moneta, si sta parlando della gestione di un continente da parte della politica, si sta parlando di politica. E semmai quello che possiamo mettere in dubbio è come è stato gestito tutto questo, come è stata gestita l'unione monetaria fino ad oggi. E su quello, devo dire la verità, nemmeno da queste parti ci siamo mai nascosti dietro un dito. Comunque, chiudiamo qua. Grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, Eleonora Aragona in redazione, Roberta Frisani in regia, a tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna domani dopo il GR delle 17 con Sebastiano Barisoni e noi ci risentiamo alle 13 con Effetto Giorno, sempre di domani. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.